gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Si torna con immenso piacere in onda sulla WRMI Radio Miami International. La voce che sta entrando nelle vostre radio è quella di Andy Mangiarotti. Vi ricordo, resteremo insieme 15 minuti per questa bella trasmissione che parla italiano, dove in 15 minuti vi raccontiamo la nostra bella Italia, notizie curiose ma anche di costume, di cronaca, di attualità e soprattutto del passato, perché ci piace ricordare anche l'Italia sotto un'altra veste che magari difficilmente ascoltate in giro. Noi siamo qui che parliamo italiano con Andy Mangiarotti su Double RMI. Bene cari amici, come state? Tutto ok? Passati i bagordi natalizi, si torna alla vita di sempre. Io, per quanto concerne il periodo natalizio, mi sono fatto una bella vacanza a Vienna con il mio caro nipote e le mie sorelle. È stata veramente una bella esperienza. Se avete l'opportunità, andate a visitare Vienna, perché è veramente una bella città. Poi le persone sono molto alla mano, giù alla buona, come amo definirle io. E niente, ve la consiglio per le vostre mete turistiche europee. Ora però entriamo nel vivo della nostra trasmissione, che come ho detto in apertura è in onda su Double RMI, WRMI, Radio Miami International. Siamo in onda su varie frequenze, vi ricordo i 15.770 kHz, e poi ci sono altre frequenze appunto che potete leggere in giro per il web oppure sul sito della radio wrmi.net. Lì trovate tutti i programmi in onda, tra cui anche il nostro I Love Italy. Se volete consultare i nostri orari, perché potrebbero subire magari delle variazioni nel periodo appunto che ci stiamo apprestando a vivere. In apertura, come facciamo sempre all'interno di I Love Italy, mandiamo un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, chi magari si è fatto sentire, ma anche mandiamo un saluto a chi invece si è limitato solo ad ascoltare il programma, magari con una sua vecchia radio a valvole, perché no, o magari con qualche apparecchiatura sofisticata. Quindi salutiamo anche gli amici radioamatori all'ascolto. Il primo amico che salutiamo quest'oggi è Harold, che ci ha scritto una mail molto bella e ci dice: ciao Andrea, sono Harold, ti scrivo da East Hampton, Massachusetts, USA. È stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sui 15.770 kHz. Ho ascoltato dalle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Innanzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo, contraccambio, caro Harold, anche a te e alla tua famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto a oggi, il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo e valutare la qualità audio. Grazie Harold per l'MP3. E poi mi dice appunto che mi fa un report di ciò che ha ascoltato, il jingle appunto di I Love Italy, le frequenze menzionate e un saluto dall'Australia. So che a volte proponi selezioni musicali anche se non comprendo l'italiano, ma ho sentito appunto quello che hai detto e mi piacerebbe ascoltare qualche canzone in lingua italiana, poiché mi piace conoscere la cultura e la musica di altri paesi. Spero di ricevere al più breve tempo possibile la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Grazie Harold da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold per questa tua gradita mail e per il rapporto di ricezione che ho girato al caro Jeff White. Ti volevo semplicemente dire di rimanere all'ascolto di I Love Italy, perché caro Harold, at the end of the I Love Italy, I music surprise for you. Quindi c'è una sorpresa musicale al termine di I Love Italy per te e per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci stanno ascoltando su Radio Miami International. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. E questo è il nostro sito web, se anche voi vi volete unire a Harold e a altri ascoltatori che appunto hanno scritto alla nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere cartoline QSL, riceverete una cartolina vera e propria cartacea, perché a me non piace le cose telematiche, quindi riceverete una bella cartolina come i vecchi tempi con appunto la nostra conferma di ricezione. Ora introduciamo l'argomento di quest'oggi. Parliamo di musica italiana, come ci ha suggerito l'amico che ci scriveva appunto dal Massachusetts. Scusate, mi sono un attimo impappinato. Di musica italiana. La musica italiana è sempre stata famosa nel mondo, da sempre, anche dai primi del Novecento, per i grandi nomi della nostra canzone. Noi la chiamiamo appunto la canzone italiana. Come ben sapete c'è la chanson française, ma noi abbiamo proprio la nostra canzone italiana. Come non citare Caruso, Beniamino Gigli, se andiamo indietro nel tempo, fino ad arrivare ai grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, Lucio Battisti, anche appunto Guccini. Sono veramente tanti i cantautori italiani che hanno fatto storia, anche quelli minori. Io potrei citarvi anche il grande Stefano Rosso, un cantautore romano molto bravo. Ai giorni nostri la musica italiana si è notevolmente, diciamo così, si è aggiornata ai giorni nostri, prendendo anche diversi generi musicali che vanno di moda negli Stati Uniti, come potrebbe essere la musica trap, la musica hip hop e così via. Però la musica italiana è quella conosciuta nel mondo, soprattutto la musica melodica italiana. C'è anche la parentesi dei Maneskin, che sono molto famosi negli Stati Uniti, però oltre ai Maneskin ci sono altre band che si stanno affermando nel panorama soprattutto europeo. Io ero a Vienna, ero in Austria e ho avuto l'occasione di ascoltare sulla TV austriaca appunto The Colors, questa band italiana, anche se il nome è inglese, però loro è un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2009. Hanno conquistato il pubblico soprattutto grazie al reality Amici di Maria Di Filippi. Siamo appunto nel 2015, questi ragazzi che sono veramente molto giovani sono praticamente dei cugini, quindi pensate, composto proprio di coro, sono composti da questi cugini Antonino, Stascia Fiordispino, voce chitarra, poi c'è Alex Fiordispino, batteria e percussioni, e dal batterista Dario Iaculli. La formazione originale comprendeva anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni, però fino a 2022. Il debutto ufficiale di The Chorus avviene nel 2011 con il singolo Don't Give Me Funk. L'apertura dei concerti italiani anche di artisti internazionali come appunto i Earth Atomics of Pace e di altre band direi rinomate. Devo essere sincero, la mia canzone preferita di The Chorus è Pensar Male, cantata in coppia con Elodie, un brano veramente nostalgico, molto molto bello e direi dai tratti un pochino malinconici, però ci piace così. Poi appunto nel 2014, con l'aiuto anche di Rocco Tanica e degli Elio Le Storie Tese, pubblicano il loro primo album I Want. Punto di svolta arriva nel 2015 con la partecipazione appunto, come vi ho detto in precedenza, del reality Amici e la vittoria seguita dal successo del singolo Everything. Every Time, scusate, del singolo Every Fine. L'album Out debutta al primo posto della classifica italiana, certificando 4 volte disco di platino per The Colors. Negli anni successivi il gruppo pubblica l'album You, siamo nel 2017, fino ad arrivare al 2018 alla partecipazione nel Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Frida. e poi un nuovo contratto con la Universal Music Group. Il percorso artistico prosegue poi con collaborazioni importanti anche con artisti proprio della scena, se volete anche hip hop, come J-Ax. E poi che cosa capita nel 2023? Esce il loro bellissimo singolo. Italo Disco segna veramente il ritorno alla vetta delle classifiche italiane e non solo, confermando il loro successo e veramente la loro versatilità musicale. Italo Disco è un tributo alla musica appunto disco degli anni 80, appunto italiana, che in Europa andava molto di moda. Negli Stati Uniti purtroppo non è mai riuscito a sfondare, anche perché gli Stati Uniti comunque negli anni 80 hanno mantenuto queste sonorità molto belle ancorate alla musica disco degli anni 70, al soul, al funky, al rhythm and blues. Invece in Europa c'è stata, diciamo così, un avvicinamento più alla musica italo disco cosiddetta, quindi sonorità ben differenti. Per farvi qualche nome, tra i grandi cantanti italiani re della Italo Disco potremmo citare Paul Mazzolini in arte Gazebo e altri grandi interpreti appunto che hanno fatto storia per quanto concerne la nostra nazione. Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi per I Love Italy. Ricordate voiceofitaly.it, doublearemai.net, eccetera eccetera. Andrea ringrazia Jeff White ancora una volta per avermi permesso di essere qua in onda con voi. Addio piacendo, ci sentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Un salutone a tutti e ora le trasmissioni riprendono con i programmi nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andrea, un abbraccio, ciao, grazie ancora, ciao ciao. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più. E il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Dear Harold, thank you for your reception report. And thank you for listening to I Love Italy. As per your request, I'll play for you a song in Italian, a track from our group The Colors, an Italian music band formed in Milan in 2009. Currently, their single Italo Disco is highly appreciated in Europe, especially in Austria, Germany, England, etc. The song pays tribute to the Italo disco music that was popular in the 80s in Europe. Thanks again, Harold, for you and all the listeners, The Colors with Italo Disco. You are listening to I Love Italy with Andy Mangiarotti. Sai pure sto zitto, Italo Disco. Questa non è